A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, buon sabato a tutti. Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Sono in condizioni fisiche disastrose. Per fortuna c'è Andrea Zorzi che sta benissimo. Ciao Andrea. Grazie mille per l'aiuto che dovrò darti, quanto ho capito. Ah, guarda, io adesso vado a prendere una tisana e ti lascio qui a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Messaggi 349 238 6666. Facebook, Twitter, tutto attivo, allacciato, quindi fatevi pure avanti. Quindi vuoi dire che chi vuole insultarti oggi può farlo senza... attraverso mille canali. Chiamate che rispondo io a voi, che volevate dire da un sacco di tempo un po' di parolacce a Carlo Genta. Intanto i risultati, la cronaca di oggi, ovviamente il calcio è quello internazionale. Ieri sera abbiamo visto l'Italia giocare un'altra partita di grande personalità. Finalmente siamo riusciti a giocare con la Serbia a Belgrado. L'altra volta a Genova non era stato possibile, ve lo ricordate bene. C'è questo 1-1, poi c'è la cronaca, quella della Formula 1 con Vettel che ha conquistato un'altra pole position, la 12ª stagionale. Ormai tutti i sabati escono le agenzie, Vettel in pole position, sembrano tutte uguali, invece 12, il record di massa di 14 è vicinissimo. Domani mattina vince il titolo mondiale, lasciamo stare le scaramanzie, gli manca un punto e lo prenderà, non ne prenderà soltanto uno, immagino. Ferrari quarto, Massa quinto, Alonso davanti a loro ci sono le due McLaren, eccetera. Poi c'è il rugby di questa mattina con l'Irlanda che si è dimostrato uno squadrone. Il Galles di più, il Galles che ha battuto l'Irlanda 22-10, Irlanda che ci aveva eliminati, e la Francia che invece ha dimostrato come i sogni possono avere un fondamento se si è forti, e la Francia lo è, ha battuto 19-12 l'Inghilterra e dunque è in semifinale ai mondiali, incontrerà proprio il Galles, quindi prospettiva di finale per i nostri cugini. Come hai dormito? Partiamo da quello. Ieri sera sono praticamente caduto nel letto perché ero un po' stanco e, come spesso accade, avevo Radio 24 sintonizzata. Sono addormentato. A un certo punto stanotte intorno alle 4 credevo di sognare, perché pensavo di essere in radio con te a commentare un po' di basket, a parlare, una cosa, Kobe Bryant. Poi a un certo punto ho capito in realtà che mi ero svegliato e stavo ascoltando la radio che è rimasta accesa, e lì tentavo di parlare e non mi sentivo, insomma un po' complicato. Stavi sentendo la replica di Palla Spicchi di ieri. Bravissima. Allora adesso senti un po', ti faccio sentire questa scheda, così poi ne parliamo. L'ala sinistra più forte di tutti i tempi? Sicuramente Amedeo Piva. Non lo conoscete? Forse perché è il prodotto della mente geniale di Stefano Benni, che l'ha inserito nella mirabile carrellata di ritratti qual è il suo libro Bar Sport. La storia di Piva parte da lontano, dalla Agnus Dei Quittollis Peccatamundi Biandrate, squadra parrocchiale ove il giocatore ha iniziato a sprigionare la potenza del suo tiro, capace di avvolgere di fiamme ogni portiere che avesse solo provato a sfiorarlo. Poi il passaggio al professionismo nella Pro Vercelli, dove mette a segno 68 gol in 30 partite. A fine anno si scatena all'asta tra le grandi squadre per assicurarsi le prestazioni di Piva. La spunta il Milan, che dà in cambio ai piemontesi 24 giocatori e 80 milioni di lire. Allenatore dei rossoneri in quel 1953 era il terribile Juarez, polacco-uruguaiano amante della disciplina, al punto da castrare i giovani della primavera. Dopo una partenza stentata, Piva mette in campo tutta la sua classe cristallina e a fine campionato la Juventus tenta di acquistarlo, offrendo la Fiat e metà Cucureddu. I tifosi del Milan, terrorizzati, minacciano un suicidio di massa barbicati sulle guglie del Duomo, mentre quelli della Juve, con la pistola alla tempia, sono pronti a spararsi nel caso di un rifiuto della dirigenza rossonera. Come andò a finire? Piva fu nazionalizzato nel gruppo Iri e si evitò la strage. Da quel momento Amedeo giocò solo per la nazionale italiana. Lasciando stare il fatto che Stefano Benni è uno dei miei autori preferiti. Ci tocca anche spiegarla, però. Sì. Settimana scorsa, con questa Kobe Bryant che viene, gioca a Bologna, ma però anche gli altri club devono intervenire. Certo, perché non se lo prende la Lega Basket? E lo nazionalizza. Esattamente. O l'Iri. Tra l'altro poi mi dicevi che Sabatini ha fatto un'offerta di questo genere. Sabatini ha detto: beh, io ho i soldi per pagarlo un paio di mesi, no? Poi tutta sta vicenda, no? Adesso non si sa se viene forse per un amichevole. In questo caso mi auguro sinceramente con tutto il cuore di no, anche perché insomma ieri sono stato un po' truce. Sì, ma è diventata una storia un po' che si è ripiegata un po' su se stessa, quindi forse viene per un amichevole, che sarebbe francamente qualcosa di inutile, di totalmente inutile. Stanotte lo dicevi, immaginate se venisse Messi a un amichevole a San Siro. Non ci va nessuno, perché non siamo il paese delle amichevoli, e questo lo sa perfettamente anche Sabatini. Quindi Sabatini ha anche proposto: io ho soldi per pagare un paio di mesi, se viene sono qui, no? Poi però potrebbe prenderselo l'Armani, Che ha gradito, immagino. Se, magari se il lockout va avanti, io dopo 2 mesi ho finito la benzina. Facciamo così allora, tanto per dire: se lo prende la Lega, sì, e ogni venerdì c'è il sorteggio. Questa settimana Kobe Bryant gioca gente che si strappa i capelli, altri che... Guarda, no, che non è male, divertente. No, ma ieri... Hai 2 giorni alla settimana in cui c'è interesse per il basket. No, lascia stare, dai, non insultarmi anche tu. Graziano da Torino, 800 24 00 24, numero verde. Buongiorno Graziano. Buongiorno a lei. Dica. Io volevo soltanto... Io non sono un grandissimo tifoso di basket. Sì. E l'altro giorno l'avevo sentita parlare appunto di Kobe Bryant e... considerare che comunque i 3 milioni e 300 mila dollari per le 10 partite o quant'altro potevano essere un investimento, cioè un motore per il basket come movimento. E sì, fin lì è una cosa ragionevole, può bastarci. Molto meno era il discorso che ho letto in questi giorni, che questo veniva, giocava una partita per... Sì. $1 milione di dollari. Cioè, c'è parlato anche di 2, sono d'accordo. No, mi sembra una presa in giro, cioè se vieni. Ma allora, certo, se vieni e ci dai un pezzettino della tua anima, e possiamo dire che hai fatto parte della nostra lega, no? Che hai giocato nel nostro campionato, è un conto. Se ci dai solo il tuo corpo per una partita e 2 milioni di dollari. Mi sembra una marchetta. Infatti devo dire che Carlo, tu quindi hai la capacità di dire: allora, hai difeso la tua posizione finché hai potuto. Quando poi hai cambiato ancora l'ambiente, e così non funziona, così diventa un'operazione che non ha nessun senso. Sono il primo a dirlo. Esatto, sei primo a dirlo. Cioè, se avesse giocato qui 10 partite avrebbe fatto parte del nostro campionato comunque. Poi discutiamo la formula, che le modifiche dei calendari, i regolamenti che non verrebbero rispettati, su cui... Insomma, magari non siamo stati totalmente d'accordo, però cioè, per 10 partite, poi sarebbe stato splendido, come ha detto ieri Dan Peterson, se avesse giocato un intero girone nel nostro campionato, quindi tutti una volta contro Kobe Bryant. Avrebbe fatto parte della nostra lega. È vero che un amico, un carissimo amico e collega di Bologna, di cui non faccio il nome, nella nottetempo mi ha mandato un messaggio, visto che siamo sullo scurrile: meglio una sveltina con Charlize Theron che un anno di eccetera. Non sono d'accordo, nel senso che preferisco rimanga di là a trattare sul lockout. Vedere Kobe Bryant qui per una one night, one shot, non mi interessa. Quindi questa è la mia posizione, non penso di essere incoerente. Tra l'altro io ne ho sentito parlare, ma non lo conoscevo mai spiegato invece come ha reagito Parker, o come hanno reagito altri atleti dell'NBA che hanno trovato accordi diversi giocando sempre con la riserva, che se ricomincia l'NBA torna indietro con queste assicurazioni costosissime. Però Parker ha fatto una scelta diversa. Tony Parker, che è azionista del Villeurbanne, ha siglato un contratto con il suo club al minimo salariale, che sono 1500 euro al mese, e si è pagato da solo il monte premi, perché è il caso di dirlo, mi sembra siano 150-160 mila euro, se non ricordo male, però potrei sbagliare in questo caso che non è dati sotto mano, però un'enormità di quattrini di assicurazione se li ha pagati da solo, quindi 1500 al mese, l'assicurazione me la pago io, gioco, anche comprato le magliette a distribuire ai tifosi. Ed è, guarda caso, un comportamento che segue l'impegno che Parker ha messo con la nazionale francese, partecipando praticamente sempre, nonostante i camp dell'NBA fossero molto stressanti, importanti, però questo evidentemente è un legame forte che lui ha con la sua nazione d'origine. So che c'è il traffico, ma c'è anche Prandelli. Proviamo a sentire una battuta, Carmelo, grazie. Ci devo pensare bene, perché mi piacerebbe rivedere subito qualcosa di tanta continuità, però per lo stesso dovrei anche valutare quelli che magari hanno giocato meno. Adesso faremo questa riflessione e poi decideremo. Proviamo a riprendere un attimo la conferenza stampa di Prandelli. La prestazione era: giochiamo con personalità, giochiamo la palla, giochiamo cercando di pressare alti, cercando di non dare punti di riferimento al centrocampo. Quelle cose le abbiamo fatte, automaticamente è uscita una buona prestazione. Cioè, non è che abbiamo fatto tanti discorsi. L'unico discorso che ho fatto è detto: magari se ce l'abbiamo qualche giorno prima è meglio piuttosto che dopo, perché poi la partita la devi fare. Perché sappiamo poi che tutti siamo, cioè nessuno ci sta a perdere, nessuno ci sta a giocare male, nessuno ci sta a ricevere delle critiche, quindi è meglio arrivare preparati. Poi, ripeto, il risultato ovviamente è sempre un po' un terno all'otto. Volevo sapere se condivide quello che ha detto ieri Stankovic, cioè che l'Italia diventerà presto una delle tre squadre più forti del mondo. Addirittura del mondo. Speriamo che abbia ragione. Per quanto riguarda noi, non facciamo questo ragionamento, facciamo un passettino alla volta, perché se facciamo un passo più lungo della gamba poi facciamo fatica a capire il perché di quello che sta succedendo. Io penso che già da martedì dobbiamo ulteriormente migliorare qualcosa, e piano piano con convinzione. Poi ovviamente, se le prestazioni sono queste, se i giocatori acquistano questa personalità, perché ieri al di là di tutto c'è stata la personalità. Su un campo difficile abbiamo gestito sempre la palla, non abbiamo mai alzato la palla, non abbiamo mai buttato via. Ho detto paradossalmente anche fin troppo, però preferisco questo che non che avere braccino per paura, insomma, ecco. Quindi andiamo piano, però pensando di poter essere già a quei livelli, stiamo lavorando. Questo è Cesare Prandelli in conferenza stampa, partita di grande personalità, dicevo prima, quella dell'Italia ieri al Maracanã di Belgrado. Andrea Zorzi, ti leggo una cosa, che è questa. Vai. Libera Rossi davanti a Jorgacevic, tira due volte al culmine di una ripartenza in becca molto Livo, che però non capisce. Cassavivo ma a intermittenza, voto 6. Pagella del tuo amico Antonio Cassano. Mi mancano i codici per decifrare la pagella, mi sa. Una pagella che poteva anche non esserci. Sai che in settimana ha sfanculato, sì, un giornalista, sì, del Corriere dello Sport, in maniera del tutto alla Cassano, senza alcun tipo di ragione. Sembrava fosse troppo vicino Andrea a lui, vero? No, stava parlando con la moglie al cellulare in un posto in cui poteva stare, perché in un posto di Corriere in cui aveva accesso ai giornalisti, quindi era al suo posto e stava parlando al cellulare con la moglie. È passato di lì Cassano e l'ha insultato con parole che non sto a ripetere, però. Però tant'è, c'è un codice etico, tutti dicono vabbè, potrebbe anche essere mandato a casa. Invece ha chiesto scusa, no? Ha ricevuto, pare, qualche telefonata e poi ha chiesto scusa, però ha detto no, ha chiesto scusa, quindi a me va bene. L'ha fatto da solo, glielo ho anche chiesto io. Diventa complicato, allora, diventa complicato. Ti dico la mia, mi colpisce il fatto che, se dovessi provare a immaginare quali erano le condizioni in cui noi si lavoravano in collegiale o nelle partite, non c'è mai stata la sensazione che i giornalisti fossero dei potenziali nemici o dei reali nemici. Quindi l'idea stessa che in qualche modo ci sono dei luoghi nei quali i giornalisti devono stare distanti, il fatto che è sentito troppo vicino significhi legittimamente che potrebbe essere lì per ascoltare ciò che tu dici, per poi farne un uso non esattamente migliore, dà un po' l'idea di quanto sia complicato per chi è sottoposto a una pressione mediatica come i calciatori gestire le cose più semplici. Dopodiché Cassano non può essere difeso da questa situazione, perché tutti gli altri sono nella stessa condizione. Esatto. Però riporterei un po' l'attenzione sul fatto che sia molto complicato anche essere un calciatore, perché quotidianamente si è veramente esposti a una certa serie di pressioni. Dunque, angolo azzurro, che mi piacerebbe tenere tutti i sabati, se sei d'accordo, in tua compagnia. Settimana scorsa, a proposito, se volete dire la vostra anche su questa vicenda, 800240024, numero verde. La settimana scorsa c'era Sandro Campagna, CT di una nazionale che No, quella di calcio speriamo cresca, quella di pallanuoto è già campione del mondo. È ricresciuta moltissimo dopo un po' di anni di fatica, con grande coraggio, puntando sui giovani e su una gradazione nuova. Esatto. E caro Zorro, oggi fa primo freschetto, mi sono casato e mi è venuta istantaneamente voglia di neve di sci. Allora abbiamo convocato un azzurro, visto che la stagione dello sci è dietro l'angolo. Ci auguriamo che nevichi e che non ci siano problemi di questo tipo. Werner Hell, buon pomeriggio Werner, grazie. Buon pomeriggio a tutti, buonasera. Buonasera, dacci una mano a inquadrare la stagione che verrà, partendo dalla Coppa del Mondo maschile. Dammi una lettura della stagione che verrà. Allora, quest'anno, come sapete, forse non ci sono mondiali e neanche le Olimpiadi, per quello saranno solo gare di Coppa del Mondo. E l'opening di questa Coppa del Mondo sarà il 23 di ottobre a Sölden in Austria, che però comunque lì gareggio poi fine novembre. Per me la prima discesa sarà in Canada a Lake Louise. Chi vedi come uomo da battere in questa Coppa del Mondo per te e per tutti gli altri? Sicuramente speriamo che non ci sono tanti, no? Che sono solo io che sta lì davanti, no? Scherzo. Chiaramente abbiamo una fortissima squadra con il campione del mondo in Super G, Cristofine Roffer, poi Peter Phil, poi Cerazzoli, Manfred Mölk. Allora ci sono tanti nomi italiani che hanno già fatto tantissimi grandissimi risultati nel passato, e sicuramente non ci sono da dimenticare gli stranieri con Didier Cuscio, Axel Lundsvindal. Sì, ci sono tanti nomi grossi e speriamo che possiamo avvicinarsi al possibile e di fare delle belle, bei risultati intanto. Comunque Cuscio e Svindal secondo te sono gli uomini da battere in questa stagione? Non vedi niente di nuovo, insomma? Ma nuovi, speriamo che ci sono anche un po' di nuovi, anche nomi italiani, che Paris o Klotz, quelli giovani che sono veramente, sono già abbastanza o molto vicini a noi, diciamo, no? Come in allenamento sono molto competitivi e poi sicuramente non si sa mai, no? Lo sci è un sport abbastanza complicato e le gare, sapete benissimo, ognuno può vincere, perché ormai c'è un livello nettamente così alto che tutti sono bravi, e dipende anche un po' di non farsi male, o la neve, o il sole, le condizioni, il materiale, tutto quanto. Si gioca sui dettagli ormai. Andrea, benvenuto intanto, in bocca al lupo. Io sono spesso interessato ai luoghi, mi piacerebbe sapere qual è il luogo legato alle tue gare che ami di più, a cui sei più legato. Ma sicuramente ci sono i luoghi italiani, con la Val Gardena, dove gareggiamo in dicembre, prima di Natale. Lì ho avuto già la fortuna di vincere lo Super G, adesso mi piacerebbe tanto di avvicinarmi sul podio anche in discesa in Val Gardena. E poi ci sono altri luoghi che sono veramente belli e belli da sciare, diciamo a Kitzbühel, dove ci sono tantissimi tifosi che ti aspettano già il traguardo, 50.000, come ti sembra essere come in uno stadio del calcio, per quello questi posti qua sono molto molto belli e certamente è sempre bello stare sul podio o di riportare a casa un bellissimo risultato. Quindi Kitzbühel è la gara che ti dà più brividi, Andrea? La più bella del mondo, forse? È forse la pista più bella del mondo, Kitzbühel? Werner? Come? No, Andrea Zorzi ti chiedeva se è la pista più bella del mondo, Kitzbühel. Sì, ma sicuramente per me è una pista molta, molta tecnica e anche molta veloce, per quello lì c'è spettacolo, e lì sicuramente per un gisellista è la pista, diciamo, più spettacolare, più bella. Per me personalmente più bella come caratteristica è Vengen, quella lì in Svizzera, lì praticamente... Come bellezza mi piace di più, però come spettacolo è Kitzbühel sicuramente. E Kitzbühel ti piacerebbe aggiungerla agli ori, insomma. Tu hai vinto tre gare in Coppa del Mondo, a Kvitfjell in Norvegia, in Val Gardena e ad Ore in Svezia. Kitzbühel ti manca, ma dicono che quella sia veramente una sorta di mondiale della discesa, no? Infatti, esattamente. Ho già potuto la fortuna di salire sul podio e lì ho già assaggiato un po' com'è il feeling, diciamo. Hai già assaggiato il feeling di quella Senti, pista. E le piste nordamericane come sono invece? Ma anche lì non è che sono brutte, anzi, c'è, all'inizio c'è, come dicevo prima, Lake Lewis, che per iniziare per la discesa è abbastanza facile, diciamo, per quello è una pista bella, così prendi un po' il ritmo, e poi la settimana dopo si va di nuovo o già negli Stati Uniti, e lì invece c'è Beaver Creek, dove fanno i mondiali nel 2015, e lì già abbiamo una pista molta tecnica, tecnica abbastanza difficile, per quello no, le piste anche lì sono molto molto belle, mancano un po' gli spettatori, però manca la storia, sono come quei circuiti di Formula 1 moderni, nati nel deserto, no? In cui sono bellissimi, tecnicamente anche perfetti, però ti non respiri la leggenda, credo sia questo. Infatti, soprattutto hai detto benissimo questo. Speriamo che nel futuro si pensano un po' sopra di creare di nuovo qualcosa di interessante, diciamo. Bernard, ti chiedo ancora una cosa, come stai vivendo queste giornate? Come ti stai preparando? Come ti stai allenando? Trovi la neve in giro, no? Ma adesso, per fortuna, 2 settimane fa siamo tornati dall'Argentina, eravamo lì 5 settimane, vi siamo allenati abbastanza bene, lì come sapete fa inverno, e adesso siamo tornati, abbiamo beccato qua un bellissimo autunno con abbastanza caldo, certamente nessuno pensa a sciare, poi in alta quota nevicava abbastanza, per quello siamo stati adesso una settimana giù su al Passo Stelvio, e adesso per questa settimana si va in Austria, si va a Stubai, e niente, poi fra 2 settimane c'è già l'opening a Sölden, per quello manca un po', non è che abbiamo ancora tanto tempo di prepararsi, però comunque sono molto motivato e convinto, e per quello mi piace molto, e speriamo di partire forte. Infatti, di partire forte positivo, e archiviare quei dannati stramaledetti infortuni in cui sei inciampato qualche volta, insomma. Ah, infatti sì, però quelli fanno parte del gioco, quindi bravissimo. È sempre un'esperienza in più, dico io. Andrea Zolzi annuisce. Sì, avviso ai naviganti, o meglio agli sciatori, quando parla di piste facili, buone per iniziare, possiamo andare io e te, eh? Esatto, con calma, tranquilli, questi vanno come delle schegge sempre, soprattutto lui. Sì, la velocità lì, come a quella pista lì in Canada, è ben sopra i 130, massimo, però è abbastanza piana, diciamo, come terreno, non è che vai giù al 90% di ripido, diciamo, per quello, sai, quando è tipo più autostrada, come una strada che ti porta, non so, per esempio al Passo Stelvio, no? Vi ritirano la patente a 130, c'è il limite, non si può andare sopra l'autovelo. Per fortuna noi non c'è ancora il limite che ti tolgono i punti strada, però no, scherzo, no, non c'è. Grazie Werner, in bocca al lupo, un abbraccio, grazie, buon davvero lavoro, a presto. Serata, e grazie per la chiamata. Grazie ciao, a Werner Elk, che dunque ci ha inquadrato questa stagione sugli sci. Ma paura maledetta. Io prego Fabrizio, provincia di Milano, e Dino da Treviso di rimanere collegati con noi. Abbiamo una breve pausa, subito dopo torniamo insieme e interverranno nelle discussioni. Io e Andrea Zorzi ci scusiamo per la lunga attesa con Fabrizio da provincia di Milano e con Dino da Treviso, ma cediamo loro subito la palla. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Senta, un intervento veloce sul mondiale di rugby che si sta giocando in Nuova Zelanda. Oggi l'Inghilterra, la Francia ha battuto miracolosamente l'Inghilterra, sì. E l'Irlanda sostanzialmente ha perso col Galles. Sì. Volevo chiedere la sua valutazione sul fatto che entrambe le due squadre nei quarti di finale, che non erano sostanzialmente favorite, hanno comunque vinto, quindi questo insomma ha ribaltato un po' i pronostici. Mm. E la seconda cosa, che cosa prevede per domani, o meglio, secondo lei quali saranno le squadre che domani potranno accedere alle semifinali, perché domani giocheranno gli All Blacks, sì. Sudafrica, l'Australia e l'Argentina. Sì, e beh, insomma, io credo che parto da qui, secondo me gli All Blacks che giocano in casa non possono non tagliare il traguardo delle semifinali, quantomeno, e poi Sudafrica e Australia saranno comunque avversari di grandissimo livello. Dall'altra parte, meno male che è così, nel senso che il rugby è uno sport nel quale il più forte di solito vince, no? Perché è uno sport che si presta poco, se vogliamo, a delle sorprese. Lì stiamo parlando comunque di grandi nazionali, cioè l'Italia infatti non ha battuto l'Irlanda e non c'è nemmeno andata vicina a battere l'Irlanda. Tra Francia e Inghilterra sono due grandi nazionali, due grandi scuole, dunque esatto, quello che avviene è che anche se il pronostico era a favore dell'Inghilterra, ma la differenza tecnica non era così alta. Eh sì. E quindi quello è un range in cui si può ribaltare il pronostico. Evidentemente l'Italia in questo momento non è ancora abbastanza vicina a squadre più forti come l'Irlanda in questo caso, o come molte squadre delle sei nazioni, e quindi in uno sport in cui alla fine vince chi è più forte nella complessità e non può, come dire, risolvere la partita in un solo gesto, i pronostici vengono ribaltati un po' meno frequentemente che in altri sport. Certo. Dino Treviso, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Bella la trasmissione. Grazie. Diciamo perché per parlare un attimo della vicenda Kobe Bryant, perché io sto seguendo tramite i giornali e tramite la TV e sento commenti e opinioni che gridano un po' allo scandalo, viste anche le cifre di cui si parla, però sono anche dell'opinione che in Italia negli ultimi anni, insomma, di scandali ce ne sono stati tanti. Sì. Vedi la vicenda Napoli, che è stata iscritta a un campionato che era palese non potesse affrontarlo. Ma sì, ma, possiamo fare un lunghissimo elenco, Dino, ma anche la stessa genesi di questo campionato con Venezia ammessa alla fine. Allora, se Venezia c'ha ragione, ci ha torto qualcun altro, e invece sì, partiamo aggruppati, per cui dico che questa vicenda Kobe Bryant più di tanto non fa. Se invece pensassimo un po' di più magari ai settori giovanili, di cui ormai se ne è persa traccia, perché tutti vogliono vincere, tutti partono per migliorare il sistema e anche la qualità, per innalzare la qualità dall'alto, ma almeno i miei maestri mi hanno insegnato che si parte sempre dal basso. Sì, ma anche però non vorrei che questo mantra dell'investiamo sui settori giovanili stesse diventando un luogo comune, un modo di dire. Dino, ieri dicevo, ho un'opinione precisa e anche, insomma, forte controtendenza da questo punto di vista. Abbiamo un campionato di 17 squadre. L'anno prossimo, ovviamente, che cosa succede? Non succede mica che torna a 16, no? Va a 18. Quindi c'è stato il casino fatto con l'ammissione all'ultimo momento di Venezia. Quindi campionato zoppo in Serie A, campionato zoppo in Lega 2, numeri dispari, e l'anno prossimo, come era già successo con Capodorlando, si aumenta di nuovo il numero delle squadre. Io sono per un campionato, un massimo campionato con un numero ristretto di squadre, facciamo 14, ma così è un numero di comodo, potrebbero anche essere meno, però un campionato ristretto di squadre che hanno le carte in regola, i numeri a posto e che si muovono in un regime totalmente professionistico, quindi al di fuori di mille pastoie regolamentari e italiani e comunitari, eccetera. Le 14 squadre professionistiche prendono i giocatori che vogliono, prendono Kobe Bryant per un mese, prendono 10 americani, oppure prendono gli italiani a prezzi di mercato, se gli italiani a prezzi di mercato sono concorrenziali con giocatori stranieri, cioè un regime totalmente professionistico. Poi regolamentiamo pure i settori giovanili, regolamentiamo pure in funzione dei settori giovanili tutto quello che c'è sotto, però io sono per campionati di vertice deregolamentati, che non vuol dire assenza di certezze di regolamenti o di calendari, che vuol dire sport professionistico pure semplice. Andrea Zorzi non è d'accordo, lo so già, però tant'è. Ma ci mancherebbe. No, ho il dubbio che così certamente chiariremo un po' il contesto nel quale giocano le varie squadre. Io però ritornerei anche all'intervista prima di Prandelli. Mi pare che il calcio sia l'esempio più lampante. Possono quasi fare a meno della nazionale. Ho l'impressione è questa, che il peso dei club sia decisamente superiore al peso della federazione in generale. Non so bene se questo sia l'unica strada possibile. Semplificherebbe le mille pastoie che nascono da questo doppio ruolo: la federazione comanda, ma la Lega è quella che controlla chi c'ha i soldi, ed è sempre una situazione che non se ne viene a capo. C'è una cosa legata alla pallavolo femminile. Oggi hanno detto che le under 22 straniere non possono giocare quando le squadre hanno già fatto la campagna acquisti, spesso puntando sulle ragazze giovani straniere. Da un giorno all'altro non può accadere una cosa del genere, ma non credo che l'unica soluzione sia quella di deregolamentare verso una gestione dei club. Io mi rifaccio anche un po' a Platini, capire un po' che ruolo debba avere la nazionale nei vari sport è un aspetto non trascurabile. E in Italia alcuni sport non possono farne a meno, la pallavolo secondo me è tra queste, la pallanuoto è sicuramente così, il basket da qualche anno ha tentato di non fare questa operazione e però ne paga un po' le conseguenze. Beh, però alla fine tu non dici non faccio giocare i giocatori italiani, semplicemente levo questo protezionismo che c'è nei confronti dei giocatori italiani, per cui se tu devi tesserare un certo numero di italiani, questi per si crea un cartello, questi costano molti soldi e a parità di bravura, per essere semplici, costano molto di più di un giocatore che viene da un altro paese. È corretto. Tornando invece all'intervento di Dino, anch'io trovo che il problema sia quello di mettere insieme due piani di lettura diverse. Se Kobe Bryant viene in Italia per un'operazione commerciale e anche sportiva, va benissimo, ma non è che qui 3 milioni di euro erano disponibili e si decide se investirli in Kobe Bryant o nei settori giovanili. I settori giovanili vanno sicuramente trattati meglio, gli va ridata l'importanza giusta, ma non si tratta di dire oh. Sono settori che devono lavorare in modo autonomo e quindi rifondare l'attenzione per la giovanile, rifondare le regole e poi pensare anche che un evento mediatico come Kobe Bryant potrebbe essere l'occasione perfetta per portare l'attenzione. Però c'è anche da dire, Andrea, che i club professionistici non sono enti di beneficenza, quindi investono nei settori giovanili se torna loro utile. Hanno però una responsabilità che, essendo coloro che in qualche modo vengono visti come i rappresentanti di uno sport, non possono trasformare quello sport solo come visione professionistica e basta, perché così ti perdi un pezzo grandissimo di chi ha il diritto e il dovere di fare sport anche senza pensare sul professionismo. E quindi io continuo a fare l'avvocato del diavolo e tu rispondi. Vai. Andiamo così. Sì. 800 24 00 24, numero verde. Ho parlato del tuo amico Cassano prima, non siamo arrivati ad una soluzione, anche perché non esiste. Ce n'è un altro che è Rooney, no, stavo leggendo le agenzie di oggi. Idiota, imbarazzante, indifendibile, censura unanime con strali di insulto per Wayne Rooney all'indomani dell'espulsione di Podgorica, dove l'Inghilterra peraltro ha conquistato l'accesso agli europei. Sì. Nessun perdono, nessuna attenuante per il centravanti inglese, evidentemente sotto pressione per il recente arresto del padre per la storia delle scommesse, come sapete. Nessuna eccezione, l'intera stampa britannica ha condannato Wazza per lo stupido calcio che gli ha costato l'espulsione, gliel'hanno detto di tutti i colori. Invece Cassano può fare quello che vuole e tanto non va a casa. Dimmi di Ibrahimovic invece, perché è un altro tema, è tutta la settimana che aspetto di chiederti cosa ne pensi. A me Ibrahimovic piace, è un personaggio che piace, sarà sbruffone, sarà zingaro, sarà certe volte sarà manesco, avrà quella faccia un po' così, però esce davanti a un microfono e dice: signori, io non, cioè, gioco, vado avanti, per carità, guadagno un sacco di soldi, allora, so benissimo, ma non sento più il fuoco dentro. Io credo che un grande campione debba essere anche in qualche maniera ossessionato da quello che fa. Non si tratta di fare un lavoro comune. Poi si aprono le porte della demagogia e mi fanno impazzire quelli che dicono: ma con quello che guadagna si permette di dire che non c'ha più voglia. Beh, allora, condivido l'idea che un sportivo professionista debba essere un po' ossessivo, un po' maniacale e pensare per davvero che quel gol, quel pallone di qualunque disciplina sia, è il pallone più importante del mondo. Per un po' di tempo questo appare essere verissimo. Poi accade a età diverse che uno dice: ma sai che forse non è mica vero che la mia vita si risolve in un campo di pallavolo o di basket o di calcio? E a quel momento devi fare un passaggio che non equivale a smettere di fare l'atleta, ma devi semplicemente relazionarti in modo diverso rispetto all'attività. Ora Ibrahimovic, che invece per me non riscuote questa naturale simpatia che tu hai nei suoi confronti, però trovo che sia all'interno di un mondo, quello del calcio, legittimamente ingessato, perché se per caso dici una parola che non è quella controllata alla lettera, rischi di scatenare della demagogia, ma guarda caso anche delle parole naturali, giuste, condivisibili di Ibrahimovic sono diventate, attenzione, perché questo è in cosiddetto mal di pancia, che allontanò Ibrahimovic dall'Inter e lo portò al Barcellona. Quindi sulle parole di un atleta a 30 anni che dice: orca, sai che è più difficile, sai che faccio più fatica, sai che è anche un po' meno divertente, comprensione totale, magari un po' sorpreso dal fatto che lui si sia sorpreso. Lo sappiamo tutti che dopo mi racconti, dopo il traffico mi racconti invece com'è stata, cioè che cosa hai sentito tu quando hai deciso di, insomma, di... Te lo riracconto. Me lo riracconti. A me e ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24, c'è ancora qualche minuto se volete dire la vostra. Domani noi saremo qui, ma non c'è campionato di Serie A, ma rispetteremo la tabella di marcia come se il campionato fosse dalle 16.30 alle 19, e poi inizia il campionato di basket naturalmente come sapete o saprete, e noi ci saremo dalle 20.30 alle 21 domani ed ogni domenica in cui si giocherà a pallacanestro. C'è Fede d'Alessandria che scrive: è uno solo lo sport in cui è facile il ribaltamento del pronostico, il calcio. È meno facile ribaltarlo, meno relativo lo sport ha possibilità di affermarsi. È vero, ma è anche una delle ragioni del successo del calcio. La ragione principale, secondo me, del successo, la sua semplicità strutturale, esatto, e l'imprevedibilità totale del risultato. 10 pari, 2 traverse. Allora, chi vuoi nazionalizzare tu? Torniamo a Piva. La lista potrebbe essere: quali atleti erano veramente così forti da meritare l'idea di essere statalizzati, in questo caso legalizzati, nel senso che la Lega di quello sport li prendeva e li utilizzava facendo questo sorteggio. Mi piace molto questa idea qui. E li faceva giocare un po' con la parola. Gli dai almeno 24 ore per allenarsi con la squadra nuova. Sì. Giusto, quindi al venerdì, diciamo, fai il sorteggio. Arriva con la ricetta al venerdì. Le stazioni del lotto. In diretta TV. In diretta così TV. Ci mettiamo in gioco anche i diritti. E quindi nel calcio non so, adesso chi potrebbe, chi è più forte adesso? Messi? Messi, sì. Giusto. Lo prendiamo e al venerdì lo mettiamo lì sullo studio. Sta settimana tu giochi con Real Madrid, tutti contenti. Sì, tifosi del Barcellona, vediamo. No, piuttosto. Karl Skirali nella pallavolo andava. Sì, andava statalizzato. Michael Jordan. Beh, insomma, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Magari anche Ibrahimovic. Sai che in certi momenti, anche perché lì sai. Poi dopo lui magari bisogna vedere, perché li vince lo scudetto, però Ibra anche adesso, ma certamente qualche anno fa, ne ha vinti 8 scudetti consecutivi lui, vero? Dunque abbiamo un ascoltatore che interviene, ma è un ascoltatore d'eccezione, un ascoltatore, un intervento molto qualificato, perché è il presidente del Volley Bergamo, Luciano Bonetti. Urca! Buon pomeriggio, buonasera presidente. Buonasera, saluto anche Giorgio che ho avuto piacere di conoscere. Ben ritrovato! Bene. Sono un po', volevo chiedere dire una cosa. Prego. Relativamente al professionismo, in cui io sono abbastanza d'accordo, sì, ma forse anche come spirito di rivalsa rispetto al nostro settore del volley, alle prevaricazioni continue che ricevono le società, in cui si trovano per la nazionale, faccio un esempio, adesso inizia il campionato stasera, noi giocheremo stasera, 3 partite, poi le ragazze partono, che sono appena rientrate, quindi senza aver avuto la possibilità di allenare, ripartono, interrompe il campionato e se ne fanno fare 12 partite in 14 giorni a Tokyo, in Giappone. Lei mi dica come faccio io a fidelizzare il mio pubblico. No, ha ragione. E dare continuità a questo movimento. Ha ragione, presidente. Non esiste una risposta contraria. Ma mi pare sia vecchio di anni la battaglia. Almeno definiamo con precisione e rispettiamo i calendari dedicati alla nazionale e quelli ai club. Cioè, io mi trovo a pagare le giocatrici. Precisiamo questo: giocatrici che guadagnano dai 50 ai 300 mila euro, quindi netti. Quindi altro che professionismo, secondo me, sotto certi risultati, le quali però sono ricattabili dalla federazione, dice che se non venite vi sospendo, certo. Anche le infortunate le vogliono verificare, cioè tutto un insieme di cose per cui noi dobbiamo solo giocare quando loro ce lo concedono. Cosa si può obiettare ad un intervento di questo tipo? Non c'è nulla se non capire che le ragioni di questa situazione paradossale è determinato dal fatto che non siamo mai riusciti in questo caso a fare in modo che le responsabilità e anche gli obblighi venissero divisi per bene, ed effettivamente se la federazione, che in qualche modo ha in mano il potere, si trova ad avere situazioni in cui, nonostante i soldi, quelli molti ce li mettono in club, però può decidere che quella ragazza gioca o non gioca, o comunque deve essere disponibile alla nazionale. In questo si aggiunge l'incertezza sui calendari, perché c'è stata questa storia della wild card per cui Italia vieni, allora le giocatrici vanno via e non riesci a programmare una stagione in questa maniera. Per esempio nella pallavolo c'è questa pausa di novembre che è veramente molto complicata. Il presidente della federazione, l'attuale cinese Wei, dice che vorrebbe evitare di dover interrompere i campionati continentali, quindi ci sono 6 mesi per l'attività di club, partono da giugno o da maggio, va bene, però almeno concentrati in 5 o 6 mesi, poi lasciamo un po' di spazio, anche perché lì l'idea è parti ti fermi, vai via. Due settimane prima la federazione impone che gli atleti debbano essere a disposizione della nazionale, quindi è molto complicato. Almeno iniziare a togliere questa pausa di novembre sarebbe fare un po' di chiarezza, sì, per mettere 5 o 6 mesi di attività. La vedo come Platini nel calcio, che dice concentriamo d'estate ad esempio l'attività delle nazionali, si tratta di giocare i campionati, poi magari comprimendo i tempi, esatto, e poi si tratta di lasciare spazio alle nazionali. Qui ci sono i campionati, là ci sono le nazionali, bisogna programmare ovviamente un periodo di vacation, di vacanza per i giocatori, se diventa matti si ammazzano, però bisognerebbe strutturare in questa maniera i calendari. Esatto, esatto. Io credo questa sia l'unica soluzione. Presidente, la ringrazio, alla prossima. Quando tornano in Giappone c'è la Supercoppa dopo una partita. Lei mi spieghi, con le giocatrici che hanno fatto 13 partite in così breve tempo, un viaggio intercontinentale, come è possibile che noi possiamo andare a giocare a parità degli altri? No, sicuro ci sono un sacco di problemi da questo punto di vista. La situazione inattaccabile è quanto dice il presidente di Bergamo. Lo diciamo da 10 anni. Lo diciamo da 10 anni e non lo so cosa si potrebbe fare. Per esempio, in qualche modo davvero iniziare a dire che dobbiamo trovare il calendario diviso tra nazionale e club, e quello deve restare, è un primo passettino di cui si parla spesso, solo che l'anno olimpico è un po' più lungo perché la federazione fa anche i tornei di qualificazione. E non esce. E l'altro aspetto tipico della pallavolo è che non sono tantissimi paesi che hanno campionati di club di alto livello, quindi tendono a privilegiare lo spazio per la nazionale. A quel punto la federazione internazionale dice io non posso pensare solo all'Italia o al Brasile o alla Russia che hanno campionati importanti, devo pensare all'intero. Sì, però poi finirà che chi gestisce campionati importanti si stuferà di farlo, e allora il livellamento sarà verso quei campionati che non contano un tubo, che Bonetti non lo faccia subito. In bocca al lupo. Grazie presidente. Io chiudo con Walter da Bergamo, ultimo ascoltatore di oggi, ancora 2 minuti. Walter, buongiorno. Buongiorno, ma io ho capito puntino perché volevo fare i complimenti visto che avete invitato Bonetti, presidente della Volley Bergamo. Non riesco a capire come mai la sua spassionata passione in confronto di certi campioni, vedi Ibrahimovic o Cassano, voglio dire, meritiamo altro in Italia, no? Ma la sua di Carlo Genta? La mia? No, a Genta volevo chiedere questa... No, Cassano non è tra i miei preferiti. Beh, lasciamo stare, però questa spassionata simpatia nel confronto di Ibrahim, quando abbiamo fior di giocatori in Italia. Io chiamo da una città che ne sforniamo ogni anno. Me ne dica uno, allora me ne dica uno forte come Ibrahim. Ma non lo devo dire io, lo sapete meglio mai voi di me. No, io non dire. Lo so. Abbiamo io un ragazzino forte... che in Under 21 ha fatto fior di gol. Ma non volevo fare il nome, si tratta semplicemente che dovete semplicemente cercare di parlare un po' di più di questi ragazzi. Inutile continuare a parlare di Ibrahimovic, che è stanco di giocare a calcio, che prende fior di soldi, è sempre lì col Milan, voglio dire, oppure insomma, bisogna aprirci un po' anche altri sport. Complimenti per l'intervento della Volley Bergamo. Ma sa che oggi, a dire la verità, o al sabato in generale quando viene Andrea Zorzi, insomma, mi sembra che parliamo un po' di tutto, che non facciamo i monotematici, anzi tutt'altro. Bisogna dire poi che se a me piace Ibrahimovic, secondo me è un giocatore straordinario e mi piace come personaggio. Bisogna svelare un segreto ai radioascoltatori: il tuo giudizio dipende anche dal fatto che, facendo il giornalista, non è trascurabile il fatto che uno dica cose intelligenti o comunque interessanti. Mourinho, per esempio, ti può anche non essere così simpatico, ma sempre quando apre bocca fa notizia. Ce ne fossero come Mourinho. Sì, no, e il tuo giudizio è in parte... Se volete parliamo di boccette, e tutti il popolo delle boccette sarà interessatissimo, però gli altri cambiano canale e noi non mangiamo più. No, ma al di là di questo, insomma, mi sembra evidente che speriamo che ne esca uno come Ibrahimovic, ma non solo sul campo. Io vorrei insieme ad Andrea Zorzi trovare qualcuno che sia intelligente ed interessante anche davanti ad un microfono, sì, se no ci annoiamo. Che ha un po' il coraggio, ma ce ne vuole molto di andare al di là di quello che è la risposta diplomatica che si dà quasi sempre. Andrea, ci vediamo sabato? A sabato prossimo. Aspetto. Tu cerca di guarire. Ci provo. Intanto domani 2 ore e mezza di diretta, dalle 16:30 alle 19:00, porterò un sacco di caramelle. Me le porta Giorgio De Luca. Grazie per il lavoro in redazione. Carmelo Lauricella in regia. Ci sentiamo domani.